Letture di Radio 24. Tra sabato 27 e domenica 28 ottobre se ne sono andate due persone molto diverse tra loro, ma accomunate dal grande amore per la musica. Sulle pagine del domenicale, l'inserto culturale del Sole 24 Ore, Quirino Principe ricorda Hans Werner Henze e Luciana Abbado. Li abbiamo perduti per strada. Eravamo distratti. A un certo punto, qualcuno o qualcosa ha chiesto di loro, dell'una e dell'altro. Ed è stato il momento in cui ci siamo accorti che l'uno e l'altra non c'erano più. Se ne sono andati a distanza ravvicinata, a un giorno di distanza l'una dall'altro. Ma eravamo noi ad essere distratti, per nostra colpa. Gli scomparsi erano due protagonisti assoluti, e infatti la loro assenza crea già inquietudini, poiché lasciano due vuoti vistosi. Meglio, due voragini. Si diceva prima, infatti, perduti per strada. Questo rende l'idea di una marcia, e di solito chi marcia è un combattente disciplinato in una formazione militare. I due scomparsi erano combattenti al massimo grado, e ciò per cui combattevano era la musica. Tutta la musica, naturalmente, purché si intenda la musica che costa studio, lavoro e fatica, se la vogliamo imparare nella teoria e nella pratica, come scienza e come arte, e soprattutto come disciplina da un lato, come ampiezza di respiro culturale dall'altro. Cominciando a scrivere queste note non esultanti, ma no, non vogliamo essere funebri, ci domandavamo se avremmo rintracciato almeno un elemento comune ai due che ci hanno lasciato, tra loro diversissimi e oggi accomunati soltanto dalla coincidenza di date delle loro morti. Siamo lieti di aver individuato non uno, ma due caratteri. L'assoluta e severa nobiltà nell'intendere la musica come un lavoro, la felicità di intenderla come conoscenza di sé e del mondo, e anche come arma benefica per affrontare meglio una realtà che sovente può essere ostile. Ah, poi si diceva che il combattente dovrebbe far parte di un esercito, ma l'armata in cui essi militavano è ormai esigua, e molti suoi reparti hanno deposto le armi e sono in rotta. Eppure, il colpo di dadi del caso ha qualcosa di non casuale. Incroci e chiasmi non mancano. Dei due, l'uno, Hans Werner Henze, nato a Gütersloh in Renania-Westfalia giovedì 1 luglio 1926, morto a Dresda sabato 27 ottobre 2012, era un artista tedesco che nel 1953, a 27 anni, se n'era andato dalla Germania per una serie di insofferenze reciproche e si era trapiantato in Italia. A Marino, a distanza di sicurezza da Roma, trascorse poi quasi tutto il resto della sua alquanto lunga esistenza. L'altra comparsa, Luciana Abbado Pestalozza, un po' più giovane di Henze, era un'intellettuale italiana e, per giunta milanese, un frutto di quella pianta illuministica ed energica che nel secolo XVIII aveva fatto di Milano un centro europeo del pensiero libero e laico e della forza con cui la cultura rivendica i propri diritti. La sua morte, avvenuta a Milano domenica 28 ottobre 2012, apre una voragine, non tanto nell'organizzazione della sua creatura amatissima, Milano Musica, che ella aveva da tempo condiviso con ottimi collaboratori ed eredi, quanto nella memoria di ciò che erano Milano e l'Italia in tempi che a noi oggi appaiono un'età dell'oro per la cultura. Diverso il carattere sociale delle due esistenze. Henze, uno dei più importanti compositori della seconda metà del secolo XX e di questi primi anni del XXI, figura di rilievo proprio per la sua ritrosia e per la sua reticenza a parlare di sé, è vissuto quasi interamente in solitudine. La presenza di un'amica in difficile rapporto di intesa, la poetessa austriaca Ingeborg Bachmann, morta tragicamente in seguito all'incendio della sua abitazione a Roma, o di un compagno, hanno accentuato, non attenuato, l'isolamento. La sua musica raffinatissima, magica, profonda, gli ha creato ammirazione, ma anche inimicizie, poiché così va il mondo. Luciana, vedova di una nobile figura di musicista quale fu Carlo Pestalozza, sorella di altri tre Abbado, Marcello, Claudio, Gabriele, figlia e madre di musicisti, è vissuta all'interno di una folta comunità familiare e amicale. O forse anche a lei è toccata la sua parte di solitudine, quella cui l'Italia di oggi condanna chiunque pensi da persona libera. Avete ascoltato la lettura di un articolo di Quirino Principe dal settimanale Domenica allegato al Sole 24 Ore in edicola oggi. Torna nelle librerie, in una nuova traduzione italiana, Vulcano 3,

Dobbiamo credergli sulla parola. Ma ne ho abbastanza di credergli sulla parola, pensò Barris. È giunto il momento di agire, anche se ciò dovesse significare le mie dimissioni forzate. Un posto di lavoro, decise Barris, non è poi così importante. Indispensabile è invece avere fiducia nell'organizzazione di cui si fa parte. Si deve credere nei propri superiori. E qualora la fiducia venisse meno, qualora ci si convinca che i superiori tramano qualcosa, bisogna darsi una mossa e prendere un'iniziativa. Fosse anche un semplice confronto diretto, un faccia a faccia per chiedere spiegazioni. Allungò una mano e riaccese il vidscreen. Mi passi l'aeroporto e alla svelta. Il monitor della torre di controllo apparve nel giro di pochi istanti. Desidera, signore? Sono Barris, faccia preparare subito una navetta di prima classe. Devo partire immediatamente. Per dove, signore? Per Ginevra. Ho un appuntamento con il direttore generale Dill. La mascella di Barris si irrigidì. Che a Dill piaccia o no, aggiunse a denti stretti. Avete ascoltato la lettura di alcune pagine del romanzo di Philip Dick, Vulcano 3, Fanucci Editore, 208 pagine, 17 euro.